Con noi Tamara Bartolini che sarà in scena insieme a Michele Baronio per il Red Reading numero 8, Roma Ribelle, itinerari di un'altra Roma, a Roma per l'appunto, a Officina delle Culture il prossimo 14 luglio. Tamara, ben trovata. Ciao, ben trovato, ben trovati tutti. Un passo indietro nei Red Reading perché siamo saliti sopra i 10 e questo è una delle tappe precedenti. E ce la presenti? Allora, questo è della seconda stagione, diciamo, perché siamo arrivati a tre stagioni. L'ultima è quella che appena, si è appena conclusa a Villa Torlonia, e il Red Reading 8 fa parte di quella che è stata una seconda stagione che abbiamo realizzato insieme a Carrozzerie Not un po' di anni fa, ed erano tre Red Reading, l'8, il 9 e il 10. Iniziavamo era proprio un ragionamento sulla città, sul governo e sulla terra. Iniziavamo appunto con Roma Ribelle, a partire dalla guida alla Roma Ribelle, edizioni Voland di Giuliano Santoro, Lorenzo Sansonetti, Viola e Rosa Mordenti, e partivamo da lì in realtà per addentrarci dentro un po' di itinerari appunto ribelli della nostra città, per raccontare un'altra Roma, passando attraverso Gabriella Ferri, Pasolini e anche ricordi di mio nonno Franco Bartolini, partigiano. Da lì partivamo per fare proprio un ragionamento di quest'altra città, metafora di un paese anche, no? Con sì. Una possibilità. E infatti poi il Red Reading 9 era quello dal libro di Pepe Mujica, La felicità al potere, e il Red Reading 10 era Furore di Steinbeck, perché arrivavamo proprio appunto a parlare poi della terra. E torniamo quindi a Roma, a Spinaceto, in questa rassegna bella, Officina delle Culture, a cui abbiamo partecipato anche l'anno scorso, a settembre, proprio con il Red Reading 9, quello su Pepe Mujica e sull'idea di un governo della felicità, e ci torniamo appunto raccontando di Roma. E lo facciamo con dei pezzi del quartiere, ma non solo. Abbiamo proprio pensato di chiamare due ospiti che avevano anche delle storie di appartenenza ai territori. Quindi una è l'attrice Roberta Mattei, e anche collaboratrice artistica del Teatro della Dodicesima, proprio di Spinaceto, e l'altro è Luca Moretti, scrittore, fondatore del collettivo Terra Nullius, Narrazioni Popolari, e di Territorio Narrante di Ostia, no? Quindi c'è anche questo, come dire, questo affondare dentro delle storie di territori importanti, e quindi ci tenevamo a fare dei ragionamenti con chi anche poi sui territori fa un certo tipo di lavoro, no? E quindi ci faremo accompagnare in questo viaggio proprio da loro due e da tutto quello che il Red Reading poi racconterà. Quindi daremo sempre uno spazio al nostro Mario Monicelli, al nostro omaggio al grande Monicelli, e ci addentreremo appunto tra canzoni, ricordi, poesie. Appunto io ho tirato fuori anche delle cose di mio nonno, proprio perché insomma era romano di Roma, e devo dire che mi ha lasciato davvero diversi itinerari, no? Anche per poter fare un'ulteriore guida a quest'altra Roma che vogliamo omaggiare. In un momento storico come questo ce n'è bisogno. Tamara, cambiano gli ospiti e cambiano anche i brani di riferimento che avete scelto? Guarda, sempre un po' cambiano, perché chiaramente ci stiamo appunto lavorando anche in questi giorni. Il fatto di stare a Spinaceto apre delle possibilità anche nuove di racconto, quindi ce ne sono anche lì di luoghi importanti, anche del nostro mondo contemporaneo. Penso al centro sociale Auro e Marco, ma appunto già anche con la presenza di Roberta si apre anche il discorso del teatro, e poi insomma, altre cose che piano piano stiamo scoprendo. E poi invece chiaramente anche grazie a Luca si aprono altri ragionamenti che arrivano fino a Ostia, che poi insomma siamo sulla strada. Sì. E quindi sì, qualcosa chiaramente cambia sempre. Il Red Reading è davvero un evento unico, è qualcosa che, anche se ripetiamo il Red Reading 8 per 10 volte in 10 luoghi diversi, certo, sarà sempre diverso. Questo anche vale anche per le canzoni, per le musiche. Sì, poi ce ne sono alcune che sono sono un po' anche quelle più stabili che lo costituiscono e sono la struttura, e poi qui ci facciamo anche ispirare, quindi vediamo un po' Spinaceto cosa tira fuori. Tamara, per le informazioni più dettagliate, i riferimenti sono, c'è la pagina Facebook dei Red Reading, giusto? Cioè, la pagina Facebook, diciamo, la principale è quella di Bartolini Baronio, dove veramente trovate tutte. Poi c'è tutto quanto. Poi c'è la pagina, sì, anche dei Red Reading, la pagina di Officina Culture e dell'evento anche Facebook Officina Culture 2, dove ci saranno anche tutti gli altri spettacoli, concerti, sono tantissime le iniziative della rassegna. E quindi ci siamo anche noi, che poi proprio il 14 luglio, sabato, porteremo anche a Spinaceto Roma Ribelle. Benissimo. Red Reading numero 8, Roma Ribelle, itinerari di un'altra Roma, a Roma, Officina delle Culture a Spinaceto, 14 luglio, con Tamara Bartolini, Michele Baronio ed altri ospiti. Tamara, un abbraccio, un in bocca al lupo e a presto. Crepi, grazie, un abbraccio grande, grande. Ciao. Ciao, grazie, ciao, ciao.